sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Hai visto stasera quanta gente, che gente che c'era al Cinema Fiamma? Tutti guardavano con interesse il film, l'unica che se n'è andata sei tu, perché? Perché era zozzo, e io quelle zozzerie non le voglio vedere. E questa è una risposta, per te era zozzo perché tu sei un ingenua, ma sei pure ignorante. Vedi Erminia, ci sono delle donne che la sera quando vanno a letto si mettono le calze nere, perché? Perché? E perché bisogna cercare di capire perché anche la vita coniugale ha subito una trasformazione. Il rapporto uomo e donna non è più quello di una volta, è cambiato. Ecco perché fanno sti film, per insegnare a quelli che non lo sanno che cosa devono fare per avere, che ne so, nuove emozioni e magari più soddisfazioni. Eccoci, sono 25 anni che siamo sposati, ci avevamo 3 figli, belli, sani, siamo sempre andati d'accordo, ci siamo sempre voluti bene. Adesso tutto a un tratto mi dici che non ti do più soddisfazione? Giuseppe Sansonna, chi sono questi due? Sono Alberto Sordi e Rossana Di Lorenzo. Il film è Il comune senso del pudore, della sintesi più meravigliosa, più profetica di quello che è la dinamica di coppia. Alla fine degli anni 70 Sordi si occupava della coppia piccolo borghese e anticipava le pulsioni sadomaso che oggi rivediamo nelle 5 sfumature di grigio. 800240024, vi prendo subito all'istante, non abbiamo molto tempo. Oggi è una trasmissione dedicata ai diversamente sadici, a quelli che non sanno maneggiare la frusta, a quelli che non hanno dimestichezza nell'uso del divaricatore rettale, a strumento che è usato naturalmente nel film, che ha fatto un incasso da record. Le 50 sfumature di grigio in America e negli Stati Uniti in questo fine settimana ha incassato 81,7 milioni di dollari. Nella storia del cinema mai un film ha avuto tanto successo proiettato nella notte di San Valentino. Quindi devo dire che è stato ormai deciso all'unanimità che tutte le donne del mondo occidentale civilizzato vogliono essere frustate, picchiate, sopraffatte, dominate. E cosa fanno gli uomini che non hanno proprio molta attitudine a fare questo tipo di attività? Saranno degli emarginati, saranno considerati dei rifiuti sociali, saranno condannati all'eterno celibato. Questa mattina vorrei la rivolta e il grido di orgoglio di tutti coloro che si sentono diversamente sadici, che si sono faticosamente civilizzati negli ultimi anni, quindi sanno che le donne non si picchiano nemmeno con un fiore, perché poi dovrebbero prenderle a schiaffi, frustarle, bastonarle, legarle, appenderle, marchiarle con i ferri roventi? Perché questo viene considerato come un gesto sublime dal punto di vista erotico? Perché questo film lo stanno guardando tutti. Il romanzo nella sua trilogia, Le sfumature rosse, nere e grigie, l'hanno letto tutte le massaie, tutte le commesse, tutte le intellettuali, tutte le professioniste, tutte le femministe. E la ricaduta qual è? Che ci guardano con degli occhi di rimprovero. Ma come? Non tiri fuori la cintura? Ma come non mi prendi a calci? Ma come non mi prendi a schiaffi? Dov'hai? Cosa c'è dentro la valigetta? Non hai gli strumenti da tortura? Non hai tutte i tubi chiodati? L'acido solforico? Tutte queste cose che normalmente sono oggetti che noi consideriamo come oggetti di criminale sopraffazione del genere femminile. Noi ci sanguina il cuore ogni volta vediamo una notizia di una donna picchiata, di una donna stuprata, di una donna impiccata, quando vediamo quei terribili documentari di signori incappucciati con il cappuccio nero che fustigano a sangue fino alla morte donne nelle pubbliche piazze semplicemente perché hanno contravvenuto a qualche regola religiosa, diciamo, beh, questa non è civiltà. Eppure questo vogliono le nostre donne, che ci mettiamo il cappuccio e le frustiamo. Diversamente sadici, questa mattina è il giorno del vostro orgoglio, proclamate il vostro diritto a non picchiare le donne. 800240024. Vedi Erminia, perché l'uomo è diverso dall'animale? Perché l'uomo è più civile, più intelligente, capisce di più, non rimane fermo a fare sempre le stesse cose, ma cerca di rinnovarsi, di cambiare, di progredire nella civiltà. Noi, vedi Erminia, abbiamo vissuto 25 anni insieme, è vero, e magari abbiamo anche creduto di essere felici, e invece tu sei rimasta un animale. Ahimè, e ma che fai, piangi? Non fa così, amamo? Mi dice animale perché sto grassa. Ma se ti sei stufata di non cambiare proprietà, perché ci vivi con questo animale? E che cosa mi dici oggi che è anniversario del matrimonio? Armi, sono cose che si dicono, tanto per dire. Tanto poi si sa che tutto resta come prima. 800240024, anche nella vostra famiglia, anche nell'habitat dove si consuma il vostro rapporto amoroso, sia clandestino, sia alla luce del sole, accade questo. Accade una sorta di scompenso spazio-temporale. Non vi sentite all'altezza del maneggio dello staffile, della maschera che soffoca, dell'appendimento giapponese, della fune da marinaio norvegese, e quindi non siete all'altezza di quello che è il momento erotico di questa ultima moda di dover picchiare necessariamente, frustare, sottomettere. Ma voi le volete proprio le donne sottomesse? Ma vi fa tutto questo piacere, tutta questa frenesia di avere una donna? Dice: padrone, ordinami quello che devo fare. Cosa vuoi? Ti faccio da tavolino? Cosa vuoi? Ti faccio da scendiletto? Dimmi come devo vestirmi. Ma sai che noia? Io già ho un problema la mattina quando devo vestirmi io, che devo anche imporre a un'altra persona come deve vestirti. Mettiti le mutande leopardate. Ma chi se ne importa? Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei è un diversamente sadico? No, assolutamente no. Allora è un sadico vero? Prego? È un sadico vero, se non è diversamente sadico, è sadico. No, non sono assolutamente sadico per nulla. Quindi lei non se la sente di frustare la sua donna, di impiccarla? Guardi, di... io ho chiamato perché, sì, ho visto per fare un piacere alla mia compagna, sono andato a vedere con lei il famoso film... io l'ho trovato, io ho 47 anni, per cui insomma qualche esperienza ce l'ho, non di sadismo, ma insomma a 47 anni... Beh, qualcuno qualcosa avrà visto nella vita, sì. Esattamente. Allora, il film è un film estremamente puerile, veramente per ragazzini... Non per ragazzini di età, per ragazzini di... Sì, ma lei cosa le ha chiesto la sua donna dopo il film? Ma, facciamolo. Allora, me lo chiede sempre a prescindere dal film. Questo, quindi questo vuole essere un po' maltrattata, perché... chiede maltrattamenti? No, beh, la mia compagna piace un po' di piace il vigore fisico, una sorta di agonismo. Ma, vabbè, una cinghiatina è... sulle chiappe così, ma non proprio, no, le frustate. No, non sono cose che a me... Non mi ispirano. Eh sì, ma lei dopo che ha visto il film la signora o la signorina, sì, chiaramente sì, adesso sì, avrà delle pretese che lei deve essere in grado di soddisfare. Lei si intende di non so, di appendimento, di legami sadomaso, cioè la saprebbe legare come un salame e appenderla al soffitto? No. Con le manette, con no. Le manette come si districa lei? Ma allora, bravo, allora tra l'altro, siccome era la sera di San Valentino, sì, lei poi mi ha fatto anche un regaletto. Le manette. Naturalmente, una scatolina mi ha messo due manette, ma quelle lì da bambini, da gioco. Beh, almeno quelle si aprono facilmente, meglio. Ma appunto. E no, quindi poi l'ha manettata nel talamo coniugale? No, ma non le ho usate neanche un po', ci siamo fatti una risata. Io durante il film ho dormito fondamentalmente, c'era un bellissimo cazzo. Vabbè, comunque abbiamo capito, il regalo delle manette è la prova tangibile che abbiamo ragione. Il diversamente sadico non ha ragione di esistere. O sa maneggiare le manette, gli strumenti di tortura, o esce fuori dalla sfera dell'appetibilità amorosa. Cinzia. Sì, ciao. Buongiorno a tutti. Vuoi essere picchiata, fustigata, appesa, maltrattata? No, forse ho sbagliato anche a chiamare, però il fatto di generalizzare mi ha preso un po' l'impeto di chiamare. Io ho provato a leggere il libro perché l'ha comprato mia figlia, ma non sono riuscita ad andare avanti più di 10 pagine. Non mi è interessato il libro e adesso, se mi spiegate bene il film, penso che non lo andrò neanche a vedere. È il film di una donna che accetta che un uomo la faccia, le faccia la sua schiava di piacere. Secondo me è tutta questione di pubblicità, cioè se ne è parlato tanto, la gente si è incuriosita, si è comprata il libro, va a vedere il film, però alla fine le donne hanno bisogno di attenzione, questo sono d'accordo. Ma di attenzione o di frustate? Perché già mi stanno scrivendo i soliti ben pensanti, Nicoletti con questi argomenti è morboso, cioè è il film più visto nella notte San Valentino da quando c'è la storia del cinema, è un libro best seller che hanno letto tutti, mi date la possibilità di parlare di questo fenomeno e improvvisamente mi sembra una cosa talmente singolare. No, secondo me le donne hanno bisogno di attenzione, forse anche qualcosina di più impegnata in quei momenti là, ma non certo di, cioè nel caso mio vorrei fare anche il contrario, se mai prendo io la frusta. A me lei piacerebbe sottomettere. No, quello che mi fa pensare, quello che mi fa pensare in realtà è decenni di battaglie per l'emancipazione femminile, improvvisamente ci si accorge che le donne non sognano altro, perlomeno dai numeri, che avere la fantasia di essere sottomessa a un uomo che poi fa l'altro, un uomo malato dal punto di vista pieno di problemi. Può darsi che sia, visto che nel mondo occidentale siamo riuscite come donne ad avere un po' di libertà e di, come si dice, se vogliamo andare avanti nel lavoro si riesce eccetera, no? Quindi ci sentiamo abbastanza libere, abbiamo bisogno di far capire all'altra persona che ok, adesso siamo pari, ora per gioco facciamo anche qualcos'altro. Sì, ma le frustate fanno male, non è che dà proprio gusto. Sì, io non essere penso, sottomesse da uno. Non da uno. Penso che intendano questo, a meno che non ci sia una. Mi sottolinea in tonti, sottomesse nel letto, mica nella vita. Il rapporto di sottomissione è un rapporto totale. La protagonista del film firma un contratto in cui ogni momento della sua vita lei è sottoposta a volontà di questo signore che se l'è comprata praticamente, che si togliesse soltanto i beni di consumo, forse, alberghi, forse elicotteri, via dicendo. Ci sarà un 1%, un 10% della popolazione che gli piace essere ma questo è giustissimo, fa parte delle scelte individuali, è il successo smodato che ci porta a pensare che se non siamo capaci di sottomettere una donna ci sentiamo fuori dal giro. E andiamo avanti. Mi arrendo! Ti arrendi? Sotto comodo, cara! Aia! Questo è per la crisi economica in cui ci precipitaste. Questo è per gli ospedali, che un poverazzo non ci riesce a entrare mai. E questo è per l'aumento della carne, del parmigiano. Questo è per l'aumento dell'olio e per la cassa integrazione. Per i programmi della TV. Questo è per l'IVA e per l'una tanto. Giuseppe Sansonna, prima del traffico, velocemente, questo è un esempio di reale sottomissione a suon di schiaffi che già esisteva nell'immaginario della nostra commedia molti anni fa. La metafora hegeliana Servo Padrone risolta su quest'isola da coppia straordinaria di Giannini Melato, lei moglie di un industriale e lui che rivendica tutta una serie di pretese sociali e le scarica in questo rapporto che si consuma in quest'isola deserta che diventa metaforica appunto di un rapporto a due. Sì, ma qui c'è la ricerca diciamo del buon selvaggio, la donna dell'aristocrazia economica milanese trova un brutale che finalmente la fa sentire femmina, a un certo punto lei gli dirà sodomizzami, lui capisce sadochizzami e non capisce cosa dovrebbe fare. Non capisce, è un problema di linguaggio, sì, però appunto viene risolta come una metafora sociale, lui è irsuto, rappresenta il virile, il oggetto del desiderio di una donna invece salottiera industriale che non può accedere a questo tipo e lo ritrova lì in questa dimensione. Però non c'entra nulla con Mr. Grey, l'insidia che Mr. Grey è uno strafigo, bello, raffinato, educatissimo. A Estuardo Mr. Grey, però quello era un grandissimo romanzo che descriveva a fondo, scritto da una scrittrice negli anni 50, Pauline Reage, la dimensione del masochismo femminile in tutte le sue sfumature reali. Questo è un po' laccato, un po' patinato, un po' di facile consumo, non si rischia nulla a leggere questo, su quello si rischiava, si sprofondava in certe zone molto interessanti, molto particolari. Beh, era robetta devastante quelle che imponevano in Estuardo, infatti allora ci fu un movimento di reazione femminile molto forte, era in realtà la brutale tortura sistematica di una donna da parte di un circolo di maschi che di questo godeva. Melog. Cronache meridiane. Ti faccio paura? Eppure una volta ti piacevo. Sì, una volta. Ti è sempre piaciuta la violenza. Non non sei cambiata affatto. Vedete, ci fa un baffo a noi, Mr. Grey. Questo è un film italianissimo degli anni 60, Giuseppe Sanzon. E questo è Mario Bava, è un caso molto interessante perché era cinema ultra popolare, non aveva nessuna patinatura glamour, anzi era considerato all'epoca un sottoprodotto di quel genio che era Mario Bava, visivo, e qui c'è Christopher Lee che prende a nerbate questa splendida donna su questa spiaggia, e già c'è la dinamica sadomaso, però inserita in un contesto appunto di grande fruizione popolare e mostrata in tutta la sua... Il titolo era La frusta e il corpo, quindi noi siamo degli antesignani di questo genere. Sì, in qualche modo sì. Cioè, e perché allora non ebbe un successo cosmico, una donna che amava farsi frustare? No, era considerato un fumettone all'epoca, era emarginato, dato in pasto alle sale di terza visione. Mario Bava non era considerato un grande autore. Oggi c'è questa commistione anche in questo tipo di cinema, delle 50 sfumature, di iperpopolare, iperpatinato, pronto per Vanity Fair, pronto per questo mondo di grandi alzeviri, di grandi riflessioni sociologiche e con celebrazione d'autore che in fondo forse probabilmente è immeritata. Sì, ma il vero problema è come il tatuaggio tribale sul coccige: se non ce l'hai non ti senti all'altezza del tempo che stai vivendo. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Lei non concorda? Io no, infatti ho telefonato perché stavo guidando, tra l'altro proprio mi è risalito proprio il bollore nelle vene perché... Ma per l'eccitazione di sentirle frustate? No, assolutamente, per quello che lei ha detto. E cosa ha detto? Le donne hanno letto le 50 sfumature, le massaie, le commesse... È vero, è vero, è la realtà. Non è vero, io non le ho lette. Beh, lei è una, l'hanno letta, è stato un best seller, uno dei libri più letti negli ultimi anni. L'avranno letto anche le massaie, le commesse. Non è che l'hanno letto soltanto le raffinate intellettuali, è un libro popolare. È un libro popolare, però secondo me è molto pericoloso dire che tutte le donne hanno letto questo libro. Io non l'ho letto per scelta, ho molte amiche, definiamole intellettuali, gente, persone, donne che leggono, che si sono rifiutate di leggerlo perché lo consideravano proprio una alla propria intelligenza. Quindi dire tutte veramente è fuorviante e secondo me anche pericoloso. È pericoloso perché, scusi, è un fenomeno di costume. C'è una preponderante tendenza a sdoganare, e mi sta bene, è una passione personale, a sdoganare l'idea che la donna debba essere sottomessa. Trovo che sia un fenomeno che perlomeno mi fa riflettere, che dopo decenni di fatica per ridare alla donna la dignità di esistenza, al di là dell'essere soggiogata da un uomo, improvvisamente l'immaginario generale ha un grandissimo successo, un uomo che tiene una donna sua schiava, è la sottomissione, non è il gioco erotico, non... Figuriamoci se mi scandalizzo per le frustatine o per le manette, se uno si diverte lo faccia. E l'idea generale è che una donna si faccia sottomettere, firmi un contratto di sottomissione, questo è difficile da capire. È molto difficile da capire, però quello che dico, che mi ha indignato, è sostenere che tutte le donne lo hanno letto. Sì, vabbè, adesso lei fa la crociata per le donne, tutte, è chiaro che è una esornazione dialettica averlo detto, l'ho detto tutte, è molto facile, lo volevano proiettare il giorno di San Valentino al cinemino parrocchiale di Varazze del Don Bosco, cioè abbiamo fatto una trasmissione, è sdoganato totalmente, ma non il fatto che ci sia un piacere erotico nel rapporto sadomasochistico, che ci sta, che la donna abbia un piacere ad essere sottomessa, questo che trovo che sia difficoltoso. Quando io vedo dei filmati su YouTube di donne frustate da un uomo col cappuccio solo perché magari non hanno osservato la regola nel vestire prescritta dal Corano, dico, le donne occidentali si preparano ad accettare questo come fosse un piacere, questa è la mia idea. Maria Vittoria. Salve, buongiorno. No, io ho chiamato perché anch'io ho avuto questo senso di bollore, però per un senso inverso, nel senso io sono una psicologa. E sentire che tante donne sognano frustrate cose a me ha fatto sorridere, onestamente, perché la maggior parte delle mie pazienti non sanno neanche cos'è un orgasmo, non sanno cos'è un rapporto orale, questo è tristissimo, che gli uomini in realtà sono questo rozzi. Questo è drammatico, e questa è la cosa drammatica, che passiamo a 100 senza passare per il resto della scala. Lei sta dicendo una cosa sacrosanta, lei capisce che proporre un modello patinato e fittizio, talmente fittizio, come un consumo popolare, è chiaro che l'uomo medio dice, ma scusate, ma perché io devo sentirmi figo se frusto una donna? Io mi sento scellerato se frusto una donna. Poi nell'intimità del proprio rapporto amoroso, sensuale, poi è chiaro, uno può fare qualsiasi tipo di gioco, ma non può passare, secondo me, il fatto che alle donne piaccia essere sottomesse. questo è il senso di questa trasmissione. Perché l'errore è questo, infatti io condivido il senso della trasmissione, lo volevo rafforzare da donna in un certo senso, perché quello che voglio dire è che è sbagliato il concetto del sadomasochismo come sottomissione. In sessuologia è considerato normale tutto quello che la coppia approva come normale. Chiaro, come divertimento, sì. Esatto, però nel momento in cui noi parliamo già di sottomissione, come avviene nel libro, io non ho letto il libro purtroppo. Allora glielo spiego, dottoressa, glielo spiego. Questa donna firma un contratto, che pare sia la cosa che più attizza tutti, che diventa totalmente dipendente da quest'uomo. È marginale il fatto che poi gli dia qualche staffilata sulle natiche, che gli metta le manette e lei rinunci al divaricatore perché lo trova troppo hard per le sue, per le sue attese. Ma il fatto che lei è totalmente schiava di lui ogni secondo della sua vita. Lui le può chiamarla e dirle fai questo, lei deve fare questo, perché questo è il rapporto. Ora, in un setting fra due persone che si divertono così va bene, ma passarlo come fenomeno popolare e dire che gli uomini, immaginare che gli uomini per essere alla moda del gusto generale femminile questo debbano fare, se permette, in qualche maniera io dico non ci sto. David, buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato perché mi veniva a mente un libro che io personalmente ho letto, che è vecchissimo, del Settecento, del Marchese de Sade, sì, che era stato uno dei libri più letti in Europa, e lì cioè, 150 sfumature di grigio è un colpo di vento a confronto. E la cosa interessante è che in quel libro lì non solo erano gli uomini gli autori delle torture, ma erano anche delle donne. Sì, comunque fa parte di un filone letterario, è un filone letterario che parla di questo tipo di predilezione del Divin Marchese, però non era un fenomeno di massa, era una cosa considerato come una attività eletta legata molto poi, diciamo, a una sorta di esasperazione appunto letteraria. Oggi è diventato un fenomeno di massa, oggi la frustata è diventato qualcosa che si acquista al supermercato. Questo era il punto. A domani.